Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. L'emergenza coronavirus sta cancellando la sharing economy. L'allarme arriva da realtà simbolo del settore come Airbnb, Uber e WeWork, che sono in grandi difficoltà. Non tutti i modelli di condivisione però sono in crisi, vi raccontiamo Aiuto da casa, l'iniziativa di Subito.it, una sorta di banca del tempo per mettere a disposizione della collettività esperienze e competenze. Parleremo anche della prima settimana di takeaway per ristoranti e bar in attesa della riapertura e poi della piattaforma italiana di food delivery per i ristoranti di provincia e di nuovi prodotti per l'emergenza, dai sanificatori per gli armadi ai kit da spiaggia per il distanziamento. Il consumautore. Airbnb e Uber hanno annunciato tagli pesanti al personale fino al 25%. Pensate, il gigante degli spazi di coworking WeWork è in ginocchio. Limitazione degli spostamenti e scarsa propensione a utilizzare oggetti o spazi usati da altri mettono in crisi il modello che più ha rivoluzionato il mondo dei consumi negli ultimi anni, la sharing economy. È la fine di un'epoca, lo chiediamo come sempre in questo spazio in cui riflettiamo sui segnali del cambiamento al sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa, buonasera. Ma allora non so se sia la fine, ma sicuramente è una battuta d'arresto molto importante. Ragioniamo su un aspetto paradossale che però è interessante. Noi abbiamo assistito in questi mesi al trionfo della prossimità, no? Anche nei consumi, la vita di quartiere, i cortili, ma anche i piccoli punti vendita, no? Che diciamo soprattutto nell'alimentare hanno dimostrato grande reattività consegnando a domicilio e mantenendo molto stretti i rapporti con i propri clienti. Mentre invece a fronte di questa prossimità che cresceva è entrata in crisi la promiscuità, cioè che è tipica invece degli esempi che tu hai fatto, cioè una sorta di condivisione incontrollata delle case, delle auto, che vengono percepite un po' come una minaccia, no? In questo momento, in questa fase. Forse si tratta di ripensare al modello, che in effetti più che essere di sharing era di massimizzazione, no? Degli spazi, del tempo, anche del profitto. E forse bisognerà invece ragionare più su protocolli collaborativi, cioè una sharing reale, no? Una condivisione in cui le persone però si conoscono e si scelgono e non adottano semplicemente questa modalità che poi è anche molto americana di massimizzazione. Quindi non è in crisi il modello della condivisione tout court, ma quello delle aziende, simbolo di questo settore, che lo hanno adottato in un determinato modo. Esatto, infatti qualcuno le ha definite no, il capitalismo delle piattaforme. In realtà, se ci pensiamo bene, c'è abbastanza poco di reale condivisione o di convivialità. Si trattava di usare il digitale in modo anche molto intelligente, ottimizzando e massimizzando le risorse che si avevano, quindi una casa vissuta tutti i giorni da qualcuno. Ecco, questo entra un po' in crisi in una fase in cui vogliamo avere più controllo e vogliamo sentirci protetti. Probabilmente saranno comunque bravi a reagire, a inventare qualcosa di diverso da questo punto di vista. Ecco, che cosa possiamo salvare di quel mondo? Quali trasformazioni vedi all'orizzonte? Sicuramente possiamo salvare la capacità digitale di mettere in relazione le persone. Noi stiamo dicendo che forse dalla sharing economy passeremo alla civil economy, dove cioè la dimensione civile, no, di economia civile, di rapporto con le comunità prevarrà rispetto al puro consumo di uno spazio, di un tempo. Questo tra l'altro per noi italiani può essere un'indicazione interessante, perché laddove noi non siamo molto bravi a gestire le grandi piattaforme, siamo invece bravi a gestire le relazioni. Quindi da questo punto di vista ci potrebbe essere forse una strada italiana alla sharing economy che diventa civil economy. Lo abbiamo già dimostrato del resto con le social streets, un fenomeno nato in Italia su una piattaforma internazionale come Facebook, citato e copiato poi in tutto il mondo. E vedi che infatti al centro delle civil street, così come il recupero dei cortili o dei condomini nei tempi della pandemia, c'è la relazione, cioè la qualità della relazione umana in cui noi siamo, lo ripetiamo sempre, molto bravi. Dalle lezioni di yoga a quelle di cucina, dalla consulenza di un commercialista a quella di un tecnico informatico, sono le competenze che Subito, piattaforma per vendere e comprare in Italia, ha messo in rete in condivisione attraverso la propria community, una sorta di banca del tempo virtuale per offrire un aiuto e un sostegno in questo periodo. Il progetto si chiama Aiuto da casa, in linea con il concetto di economia circolare, quindi di rimessa in circolo del già utilizzato, per così dire, alla base della piattaforma. Ne abbiamo parlato con il CEO Giuseppe Pasceri. Subito, intanto, ha come vocazione quella di mettere in contatto, se vogliamo, le persone, no? Noi facciamo in modo che chi vuole vendere o chi vuole acquistare, in qualche maniera attraverso la nostra piattaforma, possa esprimere questo bisogno e mettersi in contatto. In questi tempi un po' particolari, dove venire in contatto diventa un problema, abbiamo pensato che era molto interessante sondare quali nuovi bisogni ci fossero tra i nostri utenti. Noi sappiamo che siamo un palcoscenico abbastanza visitato, abbiamo più o meno 13 milioni di italiani che ogni mese ci visita, circa un terzo della popolazione, quindi abbiamo pensato di metterlo a servizio dei bisogni nuovi di questa nuova condizione. Ed è qui nasce l'idea dell'aiuto da casa. Le persone che stanno a casa, che magari hanno bisogno di un aiuto, di un conforto, di imparare qualcosa, e altre persone che da canto loro sono disposte socialmente, insomma, in qualche maniera ad aiutare gli altri con le proprie doti. Quindi voi offrite la possibilità di pubblicare gratuitamente il proprio annuncio, raccontaci come. Basta andare su Subito, sia dalle app che ovviamente dal sito web, pubblicare nella categoria altri un annuncio con l'hashtag aiuto da casa e questo automaticamente viene messo in evidenza sulla piattaforma. Posso dire che dai primi giorni, da quando l'abbiamo lanciato, ci sono già qualche centinaio di annunci dal forum e ci sono oltre 15.000 ricerche quotidiane su questo tema e ogni annuncio ha già ricevuto dai 2 o 3 contatti proprio per poter avviare questo tipo di aiuto a distanza, dai corsi di chitarra argentina all'aiuto psicologico, a bricolage, a supporto nelle lingue, a corsi di vario genere, tutti i modi dove le capacità, le caratteristiche di taluni possono essere messe a servizio per altri che possono interessarsi a cose nuove. Quindi in pratica una banca del tempo virtuale. E in buona sostanza sì, in buona sostanza sì. Devo dire che in effetti va un po' in quella direzione, assolutamente. Vedo insomma negli annunci pubblicati tutte le passioni anche di questo periodo, quindi dalla cucina ai libri, fai da te. Sì, è veramente un po' una continuazione dei bisogni naturali, proprio perché Subito stessa, no? È un contenitore di bisogni di comunità con lo scambio. Per la riapertura devono aspettare fino al 1 giugno, intanto però bar e ristoranti si sono misurati con la prima settimana di takeaway di questa fase 2. Il vicepresidente di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Aldo Cursano. Il takeaway è senza dubbio un piccolo segnale, quindi come una luce dopo 2 mesi di buio. Le gelaterie, senza ombra di dubbio, hanno portato un sorriso a famiglie e bambini, quasi tutte hanno riaperte. Senza dubbio il takeaway ha giovato molto alle pizzerie, le quali, non potendo soddisfare in un'ora centinaia di richieste, il takeaway è una manna, se le vengono a prendere, ma anche un po' di bar, ma anche un po' di kebab, di paninerie, però riaprire un ristorante con una brigata, con un'organizzazione, può aprire attività complesse con un mercato che non c'è, è complicato. Ecco perché riteniamo positivo il messaggio ma forse un po' tardivo, perché il takeaway, l'asporto, avrebbe avuto, come negli altri paesi europei, il suo senso in questi 2 mesi per dare una risposta in qualche modo alle code dei supermercati o all'affollamento in altri ambiti. Noi un po' ci sentiamo quasi traditi, non ci hanno dato ancora quel bicchiere d'acqua che avevamo chiesto per sopravvivere. Ci dicono che ce lo daranno, ci danno i crediti d'imposta fra un anno, ma se noi abbiamo da bere adesso, l'acqua che tu mi darai fra un anno servirà per l'estrema unzione. La cassa in deroga che non è arrivata ai nostri ragazzi, che dove è arrivata sono 500-600 euro, tutti si aspettavano i 1100, i 1200. La liquidità che non è arrivata alle imprese, noi ci sentiamo davvero abbandonati. La ristorazione, il bar, il pubblico esercizio italiano non ha alle spalle capitali e patrimoni. Il pubblico esercizio italiano si fonda sul lavoro, sul sacrificio, sulle 15 ore di lavoro, sull'amore, la passione, la convivialità. Basta un raffreddore e si va in crisi. Oggi stiamo parlando, stiamo subendo una pandemia, siamo in ginocchio. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco vi raccontiamo anche la storia di successo tutta italiana di Food Racers e poi i prodotti per la nuova normalità, dal sanificatore per i vestiti al kit da spiaggia. Restate con noi. Essere e avere. Abbiamo chiuso la prima parte con le difficoltà del mondo della ristorazione a supportare i ristoranti per takeaway e delivery. C'è anche una piattaforma tutta italiana. Ripartiamo da qui con Essere Avere, si chiama Food Racers, è una startup di food delivery nata nel 2016 e dedicata principalmente ai ristoranti dei centri più piccoli, spesso trascurati dall'offerta dei grandi player. Il fondatore Andrea Carturan. Eravamo partiti con speranze completamente diverse, invece siamo riusciti a crescere molto in pochissimo. La nostra è una realtà che si occupa di food delivery, si occupa di mettere in collegamento ristoranti con i ragazzi che si occupano di fare le consegne e con i clienti finali, quindi dà la possibilità tramite la nostra piattaforma, tramite la nostra applicazione, a qualsiasi cliente nelle 55 città dove siamo in questo momento operativi di poter scegliere quello che vogliono mangiare a pranzo, a cena. Adesso abbiamo inserito anche una fascia nuova che riguarda le merende, per poter appunto ordinare ciò che vogliono e riceverlo a domicilio, ecco. Voi fin da subito vi siete concentrati su questa dimensione dei centri più piccoli, più di provincia, per così dire. Sì, diciamo che noi siamo nati in un centro di provincia perché siamo di Treviso, no? Quindi abbiamo deciso di concentrarci sulle città, cittadine, diciamo, che sono un po' più piccoline rispetto alle metropoli, dove questi servizi sono sempre stati attivi, ecco. Quindi provare a dare un'offerta anche a quei centri un po' più piccoli, dove effettivamente magari questi servizi erano un pochettino più richiesti rispetto appunto alla metropoli. Per questa cosiddetta fase 2, che vedrà la ristorazione alla ripartenza, in questa fase intermedia con il delivery che è andato avanti e con l'asporto e anche poi con la ripartenza effettiva, avete messo a punto dei nuovi servizi, ce li racconti? E in realtà noi abbiamo lavorato tanto in collaborazione con i ristoratori proprio per cercare di dar loro una mano in questo periodo in cui ovviamente sono limitati nella loro possibilità di vendita normale, ecco. Quindi abbiamo deciso, vabbè, oltre al nostro servizio standard, che è quello proprio di mettere a disposizione delle persone che si occupano di fare la consegna, di aggiungere dei servizi nuovi. Uno dei primi è il marketplace, significa proprio la possibilità non di lavorare solo con quei ristoranti che non hanno mai avuto il servizio di consegne, ma di dare visibilità anche a chi i fattorini ce li ha. Ovviamente in questo periodo in tanti ristoranti si sono attrezzati anche con i propri dipendenti, proprio per non lasciarli a casa, quindi abbiamo cercato proprio di dare questa possibilità e di poter ordinare e fare arrivare direttamente gli ordini. Dopodiché abbiamo dato vita a un altro tipo di servizio che si chiama pick up praticamente, quindi siccome adesso c'è proprio la necessità di prenotare gli ordini anche da asporto, abbiamo dato proprio la possibilità di ordinare direttamente dal nostro sito, però di dare la possibilità al cliente finale di poter andare a ritirare i pasti, diciamo, direttamente al ristorante, vedere quindi il menu online dei vari locali convenzionati e dare la possibilità al cliente di dire voglio questi piatti, diciamo questi prodotti, e di andarli a ritirare all'orario in cui il cliente può andarli a ritirare, in modo da trovare già tutto pronto ed evitare le code al di fuori del locale. Quello che abbiamo cercato di fare è di renderlo disponibile un po' per tutti. Un ultimo servizio, che è quello per i panifici, macellerie, ecco, che non sono quelle attività che danno il piatto pronto, ok? È un nuovo servizio che permette a qualsiasi tipo di attività, può essere anche un fiorista, di poter fare la richiesta di ritiro da parte di rider, ok? Quindi non hanno la loro flotta, non hanno la possibilità di andare a consegnare, ma possono, tramite ordini che gli arrivano telefonicamente dai propri clienti, fare la richiesta di ritirare i prodotti e di andarli a consegnare a casa, a domicilio, diciamo, tramite la nostra rete di fattorini. Che piani avete per il futuro? Il piano nostro è di crescere sempre di più, diciamo, di affermarci sulle cittadine e di lavorare in centri anche sempre più piccoli. Ci stanno dando molta soddisfazione adesso i centri da 20-25 mila abitanti, ecco, quindi un po' più capillari rispetto al solo capoluogo di provincia, e a lavorare in tutti quei centri molto più piccoli, ma che comunque sono molto molto molto interessati ad avere questi tipi di servizio. Focus sui trend. Non solo l'emergenza, anche quella che sta diventando la nuova normalità, la fase 2, apre gli spazi per nuovi prodotti e nuove abitudini. La mascherina sta già diventando accessorio glam, le proposte moda si moltiplicano, c'è già chi dice che arriveranno anche quelle dei grandi brand, ma l'offerta si arricchisce anche di nuovi oggetti. Li abbiamo mappati insieme a Luisa Schiero di Future Concept Club. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera agli ascoltatori. Designer al lavoro su nuovi prodotti e prototipi. Apriamo con un oggetto molto interessante che ci arriva dallo studio, dal team di Carlo Ratti. Sì, Maria Luisa, davvero la creatività e quindi i designers stanno rispondendo molto bene a quelle che possono essere tutta una serie di nuove risposte a quella che probabilmente diventerà la nostra nuova normalità, anche all'interno della nostra casa. Ecco, il primo caso, infatti, si tratta di Pura Case, un purificatore realizzato proprio da CRA di Carlo Ratti Associati per una startup torinese, Scribit, una startup che ha virato in questo periodo proprio nella ricerca di nuove soluzioni, appunto, come dicevamo, per il design della casa. E di cosa si tratta? È un purificatore che ha l'aspetto di un grosso contenitore di abiti trasportabile, che però può essere sia posizionato all'esterno della propria casa, ma anche direttamente nell'armadio, e è in grado di rimuovere la maggior parte dei microorganismi come batteri o virus dai vestiti attraverso l'uso dell'ozono. 3-4 capi vengono appesi all'interno di questa sorta di custodia. Il procedimento viene avviato sia con un pannello oppure tramite, naturalmente in modo molto tecnologico, una relativa app da cellulare, e per circa un'ora avviene questo processo di sanificazione, che tra l'altro elimina anche oltretutto gli odori da tessuti. L'ozono è normalmente usato nell'industria sanitaria tessile per disinfettare gli oggetti e gli spazi, e questa modalità, tra l'altro, è decisamente sostenibile, perché in questo modo si riduce molto anche il consumo di acqua attraverso questa forma invece di lavaggio e sterilizzazione. E sta per essere lanciato, tra l'altro, attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter. Il prossimo è un oggetto che fa di un'indicazione sanitaria la propria idea, il proprio concept di sviluppo. È stato questo uno dei primi proprio elementi chiave, le prime norme che sono state ribadite e su cui si è puntato molto, è quello dell'importanza di lavarsi le mani. Ma ahimè, studi abbastanza recenti hanno dimostrato che, perché le mani siano effettivamente adeguatamente, diciamo, pulite, dobbiamo lavarle davvero per 20 secondi, e soltanto, pensate, il 5% delle persone lo fa correttamente. È una cosa molto semplice da fare, però effettivamente quest'idea di Verve, un'agenzia irlandese di comunicazione, in questo caso marketing, che ha sede sia a Dublino che a Londra e Amsterdam, ha proprio sviluppato un'idea per rendere estremamente semplice ma efficace questo tipo di attività, cioè lavarsi le mani per il tempo che è corretto. Il sapone quindi diventa una sorta di timer per aiutare le persone a lavarsi correttamente. È stata lanciata prima sui social, e quindi alcune persone entusiaste hanno fatto da test per questa idea creativa che concretamente corrisponde nella creazione di un sapone che ha esattamente la misura di 15 mm a un cubetto, che corrisponde poi a una durata di scioglimento del sapone stesso di 20 secondi, che quindi ci consente di veramente essere sicuri che ci si sta lavando le mani per un tempo corretto. Il passo successivo di Verve è stato quello di rendere possibile farlo in maniera proprio autonoma, e quindi prendendo un sapone e una saponetta in questo caso, e dividendola in piccole parti tutte uguali, avendo quindi a portata di mano sempre un elemento molto importante nella nostra quotidianità, che probabilmente, ecco, si durerà, immagino, anche nei mesi successivi. Quindi l'unità di misura base per il lavaggio delle mani, un bellissimo esempio di applicazione della cosiddetta spinta gentile che cambia i comportamenti dell'economista premio Nobel Richard Thaler. Il prossimo è un accessorio da spiaggia invece. C'è qualcuno che invece sta già pensando a come sarà possibile immaginare, se non in questo caso davvero una normalità un po' probabilmente diversa, viene da dire, da quello che abbiamo sempre sperimentato, però anche sulle nostre spiagge. Ecco che una proposta viene dall'Italia, in questo caso è un progettista, Gianluca Langiu, che è un ingegnere ambientale di Sardo, di Olbia, che ha sviluppato insieme al suo studio di progettazione in collaborazione con un altro studio di designer, Clojaf di Nuoro, Safe Beach Space. Quindi come riuscire davvero in maniera semplice, nello stesso tempo estremamente efficace, a delimitare quella sorta di spazio all'interno del quale è sicuro sostare sia nelle spiagge libere che eventualmente anche negli stabilimenti balneari. E ha realizzato due kit all'interno del quale, diciamo, c'è una retina che contiene un nastro di tessuto, tra l'altro, che quindi può essere anche personalizzato con il logo, magari, non so, dello stabilimento, lui dice, e dei picchetti, tutto estremamente sostenibile perché anche i picchetti sono realizzati con un materiale di scarto di plastiche, che creano esattamente una sorta di ottagono se si tratta di un ombrellone in una spiaggia libera, mentre un rettangolo nel caso ci dovessimo trovare all'interno del stabilimento balneare. Un'idea molto semplice che però sicuramente efficace perché è visiva e modulare, tra l'altro, no? Per cui si possono creare spazi collegati tra loro, quasi a volere, volendo anche coprire tutta una spiaggia. E pensate che il copyright è stato di questo kit già registrato in 176 paesi nel mondo. Abbiamo spazio per un ultimo caso. L'ultimo caso invece viene dalla Cina, anche in questo caso un gruppo di giovani progettisti, in particolare un designer cinese che tra l'altro ha studiato qui in Italia, poi è ritornato nel suo paese a realizzare concretamente le proprie passioni creative, Kiran Zhu, che è fondatore del marchio di design Zin Life di Shanghai. Parliamo sempre di un kit di igienizzazione chiamato Handy Capsule Sanitation. Ci consente la possibilità di avere sempre con noi un kit igienico compatto, molto anche trasportabile facilmente, che contiene quattro tipi di prodotti sanitari, diciamo i basic fondamentali: la maschera monouso, un disinfettante per le mani, degli adesivi per misurare la temperatura e delle salviette imbevute di alcol. Perché è particolarmente interessante? Perché la custodia è estremamente minimal, con un design tipicamente orientale, morbida, la fa sembrare quasi a un ciottolo levigato, molto sofisticata e molto sottile, addirittura pensate a uno spessore di soli 2,5 cm, circa 12 cm di altezza, quindi estremamente facile da trasportare. Ma qual è l'idea fondamentale? Che si discosta, proprio per questa essenza un po' glamour, da tutti i vari kit di sanificazione già presente sul mercato, per cui si avvicina molto di più a quello che noi donne tendenzialmente siamo già più abituati a portare nelle nostre borsette. E quindi l'idea è proprio quella di creare un tool, un kit estremamente utile per la nostra salute, che però sia poi in realtà davvero utilizzato e con piacere anche trasportato nel nostro quotidiano. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.